11. Una preda rara nella valle del Mohawk. I cacciatori ringraziarono la buona sorte. Il pelo rossastro brillava al sole, imperlato di gocce. La bestia nell'acqua fino alle costole sollevò il capo. Il muso grondò acqua. Orecchie enormi, narici cadenti. Aveva l'espressione attonita di un gigantesco mulo. Sulla fronte si apriva un trofeo impressionante, largo quanto le braccia aperte di un uomo. L'alce maschio si guardò attorno, fiutò l'aria. Uno dei cacciatori bagnò l'indice di saliva e saggiò il vento. La brezza aveva appena cambiato direzione. L'animale si scosse, voltò le terga e fuggì. Gli anziani dicevano che l'alce corre più veloce di qualsiasi cacciatore, più forte di un cavallo, ma l'uomo corre più a lungo di qualsiasi animale. L'alce galoppa finché il cuore regge, ma ogni tanto deve fermarsi, riposare. L'istinto avverte che i cacciatori sono ancora sulla pista e allora l'alce riprende a correre, ma deve fermarsi ancora e poi ancora, sempre più spesso. A ogni sosta i cacciatori si fanno da presso. Ogni volta che l'alce riprende la corsa è sempre più lento, sempre più incerto. Non è facile per un animale così grosso far perdere le tracce. L'uomo può tenere lo stesso passo per una giornata intera. L'alce, sfiancato, attenderà il coltello come una liberazione. Nel pomeriggio le tracce divennero più frequenti. L'alce cercava il fitto del sottobosco, lasciava segni visibili. I giovani lupi allungarono il passo. Più avanti, ancora nascosta alla vista, la preda arrestò la corsa. Sollevò il muso verso il cielo e mandò un cupo richiamo, pronta all'ultima battaglia. I cacciatori si fermarono al limitare dello slargo. L'alce apparve a non più di 40 passi, protetto dall'ombra. Polo Rognateca tirò il grilletto. Oltre la nube di fumo, l'animale crollò. I cacciatori corsero verso la preda, circondarono il corpo, piccola folla che attende a un funerale. «Ringraziamo il Signore, che ha concesso una caccia fortunata. Diamo il sangue dell'alce, nostro fratello, agli spiriti della terra, così che il padrone della vita abbia sempre a compiacersi di noi». Lo spirito dell'alce si è placato. La carne terrà in vita la nostra gente. Amen. Il guerriero più anziano si chinò, il coltello in mano. Dalla gola recisa un fiotto di sangue bagnò la terra e le gambe degli uomini. «Cerca un posto per macellare, Canenonte!» disse il più giovane del gruppo. Gli altri si accucciarono, reggendosi ai lunghi fucili. Qualcuno bevve sangue fresco, qualcuno caricò la pipa. Passò del tempo. Oroneateca si levò in piedi. In quel momento Canenonte comparve al suo fianco. Aveva gli occhi sbarrati, schiumava rabbia, tremava. Nella stanza le donne formavano un cerchio. Al centro Molly Brent è una donna più anziana, vestita di una gonna e una coperta rosso fuoco. Tra le due, un fascio di rametti di cedro bruciava su un vassoio. Ciò che era stato albero diveniva fumo. Volute sottili si alzavano verso il soffitto, senza incontrare correnti. La donna, vestita di rosso, raccolse i ramoscelli. Con la mano destra descrisse un cerchio, mormorò qualcosa. Molly diede voce alla domanda più importante. «Chi c'è dentro la bara?» «Ti ripeto quel che ho già detto, Molly Brent. Credo che Warraghyllagay non sia soddisfatto del suo rito funebre. Risale la corrente per tornare all'isola dei padri. Ora è nel mondo vero, vede cose che noi non vediamo». Molly si accorse che il fumo si rifletteva nello specchio. Portò gli occhi sul riflesso del vetro, poi sulla cima incandescente dei rametti. Il fumo oscillò, come investito da una folata di vento. La donna, dai ramoscelli, chiuse le palpebre. Molly annuì. «Manda il tuo Yaron a interrogarlo, Molly Brent. I tuoi sogni sono forti. Warraghyllagay parlerà ancora». Molly annuì. D'improvviso un brusio montò dall'esterno. Sembrava il rumore di un fiume quando la corrente accelera e diviene rapida, poi cascata. Prima che Molly potesse rispondere, il mormorio era esploso in grida di rabbia e orrore. Al centro della folla, giovani guerrieri pestavano i piedi, i muscoli tremavano, braccia si levavano al cielo brandendo asce e coltelli. Le gambe dei giovani erano nere di sangue rappreso. Attorno, uomini più anziani facevano eco. Piangevano, gridavano, ruggivano imprecazioni, le voci ferivano le orecchie. La cosa ai piedi dei guerrieri offendeva gli occhi. La cosa ai piedi dei guerrieri aveva sembianze umane. Il corpo di Samuel Waterbridge adesso era una preda scuoiata, lasciata a marcire per terra. Molly conosceva la morte, sconcia e crudele, ma non l'aveva mai vista nel luogo dove si conserva la vita. Non trascinata in mezzo al villaggio, non ostentata perché giovani maschi potessero promettersi vendetta. Molly entrò nel cerchio di corpi furibondi. Attorno le voci si placarono. Alle sue orecchie giunse l'ansimare dei guerrieri, il pianto di una donna. «Questa uccisione chiama vendetta, ma le vostre azioni fanno sanguinare il cuore. Gioventù e rabbia non servono come scuse». Fece una pausa. Nel tempo sospeso niente si muoveva. Gli occhi mandavano lampi. La donna proseguì l'arringa. «Un corpo scuoiato ferisce la vista. La morte è entrata nel villaggio senza che nessuna canzone fosse intonata, nessun rituale compiuto. La follia attraversa le menti dei giovani. La morte deve uscire da Kana Yoharie». Gli uomini ammutolirono. Anche i giovani che avevano raccolto il corpo. Le donne punteggiarono il discorso con cenni d'approvazione. Molly guardò Tekarioga, il capo del clan della tartaruga, annuì. «Chi ha portato il corpo nel villaggio lo riporti fuori, dunque, e si faccia ciò che è prescritto!» I giovani raccolsero il cadavere, ridotto a una crosta di sangue e polvere. Mentre si allontanavano, Canenonte parlò tra i denti ai compagni. «Noi perdiamo tempo con la vecchia legge, e intanto ci massacrano».